La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua all'appuntamento del sabato all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è in sala e non solo. Oggi davvero puntata con un sacco di ospiti, di premi, di giochi. Insomma, state con noi un'oretta e non mancherà il divertimento. A cominciare dal ritorno nelle sale cinematografiche italiane di un personaggio molto amato, soprattutto dal pubblico femminile, che sin dall'inizio ci si è abbastanza riconosciuto. Stiamo parlando di Bridget Jones, René Zellweger al secolo, e il suo bambino, perché il nuovo film si intitola Bridget Jones Baby. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Qualche mese fa, il 4 del mese, ho conosciuto Jack a un festival di musica pop. Certo. E ci siamo trovati bene, molto bene, e più o meno abbiamo avuto un rapporto. E la settimana dopo, vale a dire l'11 dello stesso mese, al battesimo di Jude per la precisione, in seguito a un abbondante consumo di alcolici, Mark e io, abbiamo avuto un rapporto simile. E questa è la parte esilarante, almeno penso. In seguito a quei rapporti è nata la forma di vita che al momento risiede nel mio pancino e che potrebbe essere in effetti di entrambi voi. Benvenuti di nuovo nella vita scombinata di Bridget Jones, che a 15 anni dal primo diario, estendendo un velo sul pasticcio che era il secondo film, torna in un triangolo amoroso. Pare seppellito Hugh Grant, c'è Colin Firth, sempre più orgogliosamente e rigidamente Darcy, e compare il dottor Stranamore, sì, Patrick Dempsey, da Grey's Anatomy, nei panni di Jack, haitante americano, creatore di un sito con l'algoritmo dell'amore. Due notti d'amore di una Bridget che si ritrova a 43enne ancora single. Ho un lavoro di primo piano come produttrice di un programma di news. Ho un incarico importantissimo da affidare. Volontari? Devi andare in bagno, Bridget? Sono in ottimi rapporti con gli ex. Come stai? Molto bene, grazie. E tu? Bene. Un bicchiere di vino. Posso avere un whisky? Bello grosso. Doppio. E la mia vita amorosa mostra segni di miglioramento. Oh! Posso? Calza. A parte una piccolissima novità, sono incinta. A questo punto non è più l'unico guscio vuoto di Londra, ma una primipara attempata. E il caso che il film sia uscito nel giorno del Fertility Day fa molto sorridere. Qui c'è abbondanza di papà e lei, nell'immaginario della madre, è una peccatrice Maria Maddalena della middle class britannica. Oh no, Bridget, chi è il padre? È Mark? Almeno al 50% sì. Al 50%? Hai fatto una cosa a tre! When I was young, fa ridere Bridget Jones Baby, terzo capitolo della saga, diretto da Sharon Maguire, come il primo. Grazie a René Zellweger, ai suoi amici e familiari 10 anni più vecchi e a una strepitosa ginecologa Emma Thompson. Bridget è moderna e antica allo stesso tempo. Non conosce le nuove pop star, ma usa WhatsApp. Si parla di maternità surrogata e adozioni gay, ma dagli hipster al lavoro ci si deve ben guardare. Alla fine Bridget, novella Cenerentola, ama la persona che la fa sentire a casa e gli spettatori ridono davanti alle peripezie per porre termine alla sua zitellitudine. È molto divertente, è stato molto bello. È molto tirato per i capelli, secondo me. Un po' fatta apposta, però è stato piacevole comunque. Moltissimo. Beh, avevamo già visto gli altri e questo fa ridere da morire. Beh, lei è sempre stata forte, ho visto anche i diari, fa ridere, simpatica e bella. Molto divertente. Gli uomini? Faceva il tipo per qualcuno? Vabbè, il vecchio Mark, perché è una storia vecchia, però ci stava anche l'altro. Mi è piaciuto molto. Perché sei venuta a vederlo? Avevo visto il primo, mi è piaciuto. Facevi il tifo per uno dei due? Sì, assolutamente, Mark. Per Patrick Dempsey. E questo era Bridget Jones Baby. Chiara Pizzimenti ce l'ha raccontato, fra poco gli altri film nelle sale. Prima però un annuncio che ci rende anche un po' orgogliosi, perché come sapete, come avrete sentito anche in questi giorni, avrete letto sui giornali, Dylan Dog, il personaggio creato da Tiziano Sclavi nell'86 e diventato un must della Bonelli, festeggia i suoi 30 anni di vita editoriale, è diventato un nuovo classico come Tex, Zagor e i grandi fumetti Bonelli. Ebbene, il 26 settembre sarà l'occasione per vivere con i lettori il Dylan Dog Horror Day Appuntamento a Milano in Piazza Liberty alle 16 in compagnia degli autori di Dylan Dog per la Zombie Walk e un pomeriggio da incubo al The Space Odeon organizzato in collaborazione con Studio Universal. Prende parte a questi festeggiamenti anche Radio 24 che da sabato 1 ottobre alle 15 trasmetterà il radiofumetto dove Dylan Dog prende vita e voce e racconta le sue più emozionanti avventure tra quelle firmate da Tiziano Sclavi. Sono 8 episodi a partire dal primo album dell'86 fino all'ultimo di Sclavi in edicola a novembre. Sarà davvero una grande giornata che coinvolgerà anche voci storiche e prestigiose di Radio 24 come Gianluca Nicoletti, come Enrico Ruggeri che venerdì 30 nella trasmissione Il Falco e Gabbiano racconterà proprio la vita del creatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi. E allora, questo per quanto riguarda i festeggiamenti dei 30 anni di Dylan Dog e Radio 24, noi adesso diamo la linea alla viabilità, poi torniamo con quello che forse è il film della settimana davvero, si intitola Elvis and Nixon. La rosa purpurea. Il signore Elvis ha portato una lettera per lei stamattina. Elvis? Elvis Presley? Il cantante. Oh, lo so chi è Elvis Presley. E dovrei vederlo durante la mia ora di riposo. Sì, signor Presidente. Posso essere e sarò senz'altro più utile alla causa in qualità di agente federale aggiunto. È una cosa che esiste. È uno scherzo. Andiamo allora. Ogni elettore ama Elvis. Chiaro? Signor Presidente, il signor Elvis Presley. Signor Presidente, qua la mano. Ma perché no? Piacere. L'incontro fra due grandi della storia dell'umanità, potremmo dire, nelle rispettive sezioni di appartenenza, ma anche con i rispettivi chiari e scuri, però sicuramente due nomi che hanno fatto la storia. Abbiamo cominciato questa seconda parte della Rosa Purpurea con una clip di Elvis and Nixon. L'incontro, la storia, la ricostruzione dell'incontro che effettivamente c'è stato e di cui rimane una testimonianza, una foto, una stretta di mano tra il presidente degli Stati Uniti di quel 1970 e il re del rock and roll Elvis Presley. Ebbene, questa storia diventa un film e attraverso i CD, attraverso tutto quello che era il retroterra, ricostruisce proprio i termini più intimi di un incontro che è stato ovviamente a 4/6 occhi a seconda del momento, ma è stato anche un incontro fra due mondi totalmente distanti, appunto The King of Rock and Roll, Elvis Presley, era il 70, non erano certo gli anni 50-60, ma insomma era una sorta di divinità in terra, con la sua Graceland già costruita, con la sua fama crescente, e Nixon, presidente repubblicano, conservatore, anti-rock and roll, che vede, mal sopporta questo incontro, capisce dai suoi adepti che forse è il momento di fare qualcosa di pubblico per diventare simpatici, soprattutto al mondo dei giovani, accetta, ripeto, suo malgrado questo incontro, ma ne nascerà invece una sorta di intesa umana davvero particolare. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, io mi sono divertito molto, soprattutto dalla mezz'ora in poi. La prima mezz'ora del film gira un po' a vuoto, si capisce che il nodo, il nucleo veramente fiammante di questo film è l'incontro e sembra quasi che il resto sia stato messo lì giusto per arrivare a un minutaggio dal lungometraggio. Sono d'accordissimo. L'unico difetto di questo film, secondo me, questo film particolarissimo, è anche una bella scommessa a livello di scrittura e visiva. È proprio quella parte là in cui è chiaro che sceneggiatore e regista cercano di costruire quello che i ragazzi moderni chiamano l'hype, cioè l'attesa dell'evento, ma che in verità in qualche modo lo annacqua, anche se poi te ne dimentichi proprio quando l'incontro avviene. L'intuizione è geniale, secondo me parte proprio da quella che è la foto più scaricata dall'archivio federale degli Stati Uniti, cioè la foto tra Nixon ed Elvis Presley. È curioso perché di quel incontro noi storicamente sappiamo pochissimo, perché Nixon inizierà a registrare gli incontri nella sala ovale e nel resto della Casa Bianca solo dall'anno dopo, e perché Elvis non parlerà mai di quell'incontro, e quindi noi abbiamo solo testimonianze marginali dello staff di entrambi, che però ne hanno visto pochi minuti. Il resto è un incontro che se n'è andato con questi due miti. Qual è l'intuizione, secondo me, geniale, anche surreale, un po' grottesca, che è alla base di Elvis vs. Nixon? Non costruire l'icona attorno a loro due, non fare una geografia di un incontro tra due umanità che forse si scoprono più simili di quello che si immaginava, ma raccontare due giganti partendo dai loro piedi d'argilla, cioè partendo dalle loro debolezze. Quindi Nixon, che ha un bisogno disperato di essere riconosciuto e che ha cercato il potere per riscattare l'emarginazione che ha avuto per anni, politica, umana, anche estetica, che per lui è così importante, è Elvis che ci dice che l'essere il re ti condanna ad essere da solo, e tutti guardano Elvis e non quel ragazzino di campagna che conosce solo una persona, non vi diremo chi, ma che rappresenta uno dei cardini del film. Questi due uomini cercano un riconoscimento entrambi, Elvis ne cerca uno particolarissimo che non dirò perché è molto divertente, è uno dei momenti più esilaranti del film, che può sembrare assurdo, ma che in qualche modo tu rendi credibile perché sai che è accaduto, ma soprattutto perché sono loro. Poi non sappiamo, insomma, se quello sguardo stralunato è lo sguardo di due che si sono trovati o di due che non si sono capiti, perché noi abbiamo solo quella foto e adesso questo film che ci fa immaginare questo incontro, però che rendono questo incontro incredibile, in qualche modo credibile e anche empatico verso due personaggi che in fondo tutta questa empatia non la suscitavano. Uno ha suscitato tanto odio e l'altro tanto amore, ma davvero capiti non li ha capiti mai nessuno. L'impressione è che ci è riuscita questo film e con tutte le sue stranezze, con tutte le sue discontinuità, secondo me è un film assolutamente da promuovere. Buongiorno, un biglietto per favore. Sì, dove dovrebbe andare, signore? A Los Angeles. Quella in California? Indovinato. Quella in California? E quante ce ne sono? Sa, ho pregato così tanto che questo giorno arrivasse. Mia cugina, lei mi diceva sempre: Margaret, tu mai, mai incontrerai il re, quindi piantala. Mai smettere di sognare, mai. Michael Shannon nei panni di Elvis Presley, avete sentito la clip. Kevin Spacey nei panni di Richard Nixon dirige Lisa Johnson, Elvis e Nixon nei cinema italiani. Noi adesso giochiamo perché è arrivato il momento di cominciare a farsi un po' la bocca e magari già indovinare il film della settimana, il film misterioso della settimana da questa clip. Perciò io potrei anche entrare in tribunale adesso e prendermi quei documenti. No, non può farlo, perché quei documenti lì non ci sono. Ma ha detto che sono pubblici. So che l'ho detto, ma questa è Boston e la Chiesa non vuole che i documenti si trovino, quindi lì non ci sono. E allora, se avete già riconosciuto il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere il Blu-ray di questo film e lo sveleremo chiaramente prima della fine della nostra trasmissione. Più tardi vi daremo un'altra traccia. E allora passiamo adesso a un altro film che arriva nelle sale cinematografiche italiane con una distribuzione mirata ma molto capillare, quindi comunque molto molto visibile. È un film che riporta sugli schermi italiani un autore che abbiamo già apprezzato qualche anno fa con un film che si intitolava Videocracy, era il 2009, era un documentario molto molto interessante e si tratta di un regista che già dal nome tradisce una doppia origine, svedese Erik, italiano Gandini. Il film stavolta nuovo che è nelle sale italiane si intitola La teoria svedese dell'amore. Da fuori la Svezia sembra una terra promessa, un luogo perfetto dove poter vivere una vita migliore, una meta di arrivo per cui vale la pena di correre grossi rischi. Sono così tanti i rifugiati che giungono qui da paesi in difficoltà, cercando una vita migliore, cercando pace o semplicemente cercando di sopravvivere. E invece cosa succede? Perché tutta questa prolusione di questa clip che ci dice che la Svezia è un paese ideale, forse idealizzato, nel quale si arriva con la convinzione che sia una sorta di paradiso in terra, invece lo chiediamo proprio a Erik Gandini, che è in collegamento con noi. Ciao Erik. Ciao. Sì, è un paese idealizzato molto dall'Italia, ma è idealizzato anche dalla Svezia stessa, perché è un paese per tantissimi versi riuscito. Quello che mi interessava invece raccontare insomma, un'idea che ha dominato tantissimo lo stile di vita svedese, che è quella dell'autonomia dell'individuo. È stato un progetto politico dagli anni 70 che ha liberato gli anziani dai figli, i figli dai genitori, e le coppie, all'interno della coppia c'è questa idea dell'autonomia assoluta, che è appunto la teoria svedese dell'amore. E c'è un risvolto che secondo me poi è il male del nostro secolo, che è la solitudine. Il film racconta quello. Racconta quello perché la Svezia è il paese forse più facile dove farlo, ma è una tematica, penso, occidentale. Certo, diventata sicuramente occidentale, perché Eric, quel modello lo abbiamo seguito, anelato, mai raggiunto probabilmente, esatto. Però è vero anche che abbiamo buttato via alcuni elementi invece di quella che era, per esempio, noi in Italia, una nostra cultura che prevedeva invece una vita di famiglia in comune, di relazioni che comunque sostenevano in qualche modo l'individuo. Esatto. Cioè, il grande traguardo svedese è quello di riuscire veramente a liberarci gli uni dagli altri, dico liberarci perché io vivo lì, e questa, l'idea ovviamente era quella di migliorare i rapporti, cioè di non dover stare insieme per forza, che è un'idea appunto che non fa una piega. Questo però ha comunque fomentato un'ossessione all'autonomia, all'autosufficienza, che è appunto la tematica del film, che secondo me si basa su una promessa di felicità che poi alla fine non c'è, perché tu sei lì solo nel tuo appartamento, stai bene davanti al computer, socializzi attraverso i social network, non hai bisogno di nessuno, e all'improvviso ti trovi nella noia completa. Che poi c'è anche una presenza nel film di Zygmunt Bauman, che è un grande sociologo novantenne che ha parlato di queste cose per tanto tempo e che descrive appunto alla fine del film questo in modo molto lucido. Il film invece è una serie di storie, di personaggi anche molto forti, un repertorio di personaggi appunto che cercano di mettere a fuoco questa idea appunto dell'indipendenza e l'autonomia assoluta dell'individuo. Insomma, la teoria gandiniana della Svezia è che dietro tutto quel mito della libertà sessuale, dei filmini Super 8 degli anni 70 eccetera, c'è del marcio anche a Stoccolma. Ma certo, poi quelli sono vecchi miti, non so quanto siano veri, insomma ci sono tanti stereotipi sulla Svezia che non sono veri, è comunque un paese che rappresenta la modernità, cioè il paese più moderno del mondo, che sta andando avanti a una velocità fast forward, si dice, verso il futuro, per cui il film si racconta una parte di questa realtà che non viene sicuramente lanciato al Ministero del Turismo, ma che appunto che, sai, la Svezia è il paese dove c'è la percentuale più alta di abitazioni singole e la metà delle persone vivono sole, una persona su quattro muore sola, perché è possibile. Il film appunto cerca di raccontare quest'altra faccia della Svezia. E allora, grazie Eric Gandini. Nei cinema trovate La teoria svedese dell'amore, andatelo a vedere perché è molto molto interessante. Grazie Eric. Grazie. Lì nella regia, fra poco si torna al cinema di narrazione con i Magnifici Sette, raccontato da Boris Sollazzo. Fra poco La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, che si apre ancora con l'attualità cinematografica, coi film in sala. Arriva il remake di un capolavoro della storia del cinema, che a sua volta era una sorta di remake di un capolavoro della storia del cinema. Stiamo parlando dei Magnifici Sette, che si rifà propriamente al film di John Sturges del 60, che a sua volta era remake dei famosi Sette Samurai di Akira Kurosawa. Stavolta dirige Anton Fuqua con Denzel Washington nel cast. Sentiamo la clip. Stiamo parlando dello stesso Jack Horn. Jack Horn, la leggenda. Dite che quello è il fucile di Jack Horn. Era il fucile di Jack Horn. Beh, ecco, Len gli ha spaccato un sasso in testa. È caduto in un dirupo. L'avete preso alle spalle? Che diavolo vorresti dire? Oh, buon Dio. È finita la fama dei fratelli Pigeon. Erano i Sette Samurai di Kurosawa, sono i sette mercenari assoldati da una cittadina del West per cercare di trovare protezione dal potente capo magnate che governa da despota questa cittadina. Sette mercenari che pian piano scopriranno che c'è qualcosa per cui stanno lottando che va oltre il vil ma utile denaro. Boris, i Magnifici Sette, Anton Fuca, certo si è preso un bel rischio. Si è preso un rischio enorme perché insomma non hai preso solo un grande film, ma un film iconico. Ditemi chi non ha fatto, chi non ha fischiettato per almeno un migliaio di volte nella vita la colonna sonora dei Magnifici Sette, chi non ha in testa almeno una dozzina di fotogrammi di quel film. E farlo non richiamandosi di fatto all'originale, facendo sentire quella colonna sonora per qualche secondo verso la fine, e in qualche modo rifiutando il modello, se non nella sua struttura narrativa, è davvero un atto di incoscienza pura. Questo lo dico anche per un'avvertenza: non andate a vedere i Magnifici Sette rivedendovi i Magnifici Sette, che sembra un gioco di parole folle, ma è così. Andatevelo a vedere in qualche modo vergini, è impossibile, ma senza aspettarvi un remake all'altezza dell'originale. Qui siamo da un'altra parte, perché Fuqua riprende forse l'unica cosa che gli interessa di quel film, è che è in qualche modo il centro narrativo ma anche contenutistico del suo cinema, cioè la critica al sistema, la critica in particolare a un sistema capitalista. E qua è quello che rimane di quell'originale, cioè la critica al tiranno, la critica al latifondista, l'opposizione a un sistema che si fonda solamente sul vil denaro. Il resto cambia perché si è modernizzato. Io vi faccio un esempio: quello che vi ricordate di più dei Magnifici Sette è probabilmente il cattivo. Qui il cattivo è sostanzialmente fuori campo. Quello che vi ricordate è che avevate sempre paura nei Magnifici Sette, ma si moriva poco nell'originale, anzi nel remake di Kurosawa. Qui dopo mezz'ora almeno 200 persone sono state fatte fuori in ogni modo, quindi ci sono fiumi di sangue che lì invece non c'erano. Alla fine della fiera però che cosa ci rimane? Ci rimane un Denzel Washington assolutamente iconico, nero, su un cavallo nero, vestito di nero, e un cast che poteva sembrare folle, guardandolo sulla carta, da Vincent D'Onofrio, da Ethan Hawke, che invece è molto ben amalgamato, anche con le famose quote da marketing antropologico del cinema americano. Quindi c'è un afroamericano, c'è un orientale, c'è un ispanico, per accontentare tutti. C'è un insieme di ispirazione antica e anche commercialità moderna che rende, secondo me, il film assolutamente godibile, anche perché Fuqua è un grandissimo regista popolare, ha una capacità di creare atmosfere straordinarie e di costruire scene d'azione e scene epiche di grande valore. Quindi uscite dall'illusione che potrete ritrovare quel capolavoro e vi divertirete e vi intrattenirete e troverete un Denzel Washington finalmente ai livelli di qualche anno fa. Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, i Magnifici Sette, remake del remake di un capolavoro nei cinema italiani. Adesso la seconda traccia del film misterioso di oggi. Abbiamo Lo, è fatta. No, questo è Lo che sta coprendo un solo prete, ce ne sono altri 90 in giro. Sì, pubblicheremo quella storia quando l'avremo, ma andiamo con questa adesso. No, è meglio non avere fretta, Mike. E allora, questo è il nostro film misterioso. Se avete indovinato di che film si tratta, come sempre la regola è semplice: la rosa purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere il film che sveleremo fra pochi minuti. E allora adesso prendiamoci un attimo, prima di tornare all'attualità cinematografica in sala, per parlare di un festival che ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, la Rosa Purpurea ha sponsorizzato. È Mangia Cinema, che si svolge a Salso Maggiore proprio durante la prossima settimana, dal 28 settembre all'inizio, al 5 ottobre. È il festival del cinema goloso e del cibo d'autore, con ospiti tra l'altro di grandissimo rilievo e con con una sorta di grande totem alle spalle in questa edizione, che è la figura di Alberto Sordi. Noi siamo in collegamento con Gianluigi Negri, che è l'ideatore, l'inventore, il curatore, è veramente il tutto di Mangia Cinema. Gianluigi Negri è Mangia Cinema. Ciao Gianluigi. Ciao Franco, buona giornata a tutti. Gianluigi, tantissimi ospiti in questa settimana abbondante di Mangia Cinema. Dacci due o tre nomi. Hai già detto Andy Luotto nelle vesti di chef, è già una cosa che ci esalta. Dacci due o tre nomi che vale la pena non perdere lì a Salso Maggiore. Beh, io direi apertura, chiusura e centro. L'apertura con Enrico Vanzina, viene a Salso Maggiore mercoledì 28 settembre, apre il festival, ricorda Papà Steno, riceve il premio Mangia Cinema creatore di sogni e soprattutto festeggia 40 anni di carriera a Salso Maggiore Terme, in un incontro molto atteso, per il quale abbiamo tantissimo interesse, che è il cinema popolare dei Vanzina, 40 anni di storie italiane. Ovviamente Storia di un italiano era il programma cult televisivo con Alberto Sordi, loro negli ultimi 40 anni hanno raccontato, i fratelli Vanzina, Enrico e Carlo, tantissime storie italiane, ed Enrico non solo festeggia 40 anni di carriera ma anche 100 sceneggiature, pensa. E sabato 1 ottobre alle Terme premiamo con il premio alla carriera Mangia Cinema 2016 creatore di sogni un altro nome straordinario del cinema italiano, che è Elio Pandolfi, una serata interamente a lui dedicata, personaggio eclettico, poliedrico, che tutti amiamo e conosciamo, e gran chiusura, anche se noi siamo Mangia Cinema, con l'autore per eccellenza della musica italiana, non paroliere perché è una parola che lui odia, autore. Chiuderemo mercoledì 5 ottobre con Mogol. In mezzo, se permetti, più che in mezzo direi in apertura e in chiusura, due grandi feste, perché a Mangia Cinema si mangia, non abbiamo solo gli incontri con gli artisti dello spettacolo, ma abbiamo anche gli artisti del gusto che lavorano per gli artisti dello spettacolo e per il pubblico, con 30, 40, 50 degustazioni gratuite nell'arco degli 8 giorni di festival. Allora ti dicevo, apertura e chiusura con due grandi feste, due grandi abbuffate. La festa di apertura si chiama doverosamente Io me te magno e la festa di chiusura si chiamerà doverosamente Salso mille colori. Beh Gianluigi, direi che hai detto veramente tutto quello che c'era sapere su Mangia Cinema. Del resto c'è un bellissimo sito internet www.mangiacinema.it, andatelo a vedere. Io sarò lì a Salso Maggiore. Bene. Con Gianluigi, e quindi ci divertiremo e ne vedremo davvero di cotte e di crude, fammi dire. Sarà anche protagonista, possiamo dire, di questo. Diciamolo. Allora, Franco D'Assisti, il conduttore storico della Rosa Purpura di Radio 24, avremo l'onore di ospitarlo in qualità di presentatore di un evento al quale teniamo tantissimo. È il Marchese del Grillo, nascita di un cult, e ne parleremo con la costumista e lo scenografo, vincitori entrambi del Davide Donatello e del Nastro d'Argento per il Marchese del Grillo. E questo incontro si terrà venerdì 30 settembre al Palazzo dei Congressi di Salso Maggiore, con Lorenzo Baraldi, scenografo, Gianna Gissi, costumista, e al centro della scena Franco D'Assisti della Rosa. Beh, non esageriamo. Comunque venerdì siamo lì, parliamo del Marchese del Grillo, che insomma è un capolavoro, certo, immortale. Certo. Grazie Gianluigi e buon Grazie festival. A Ciao a tutti. E allora a questo punto Giulio San Giorgio, invece cambiamo cavallo e andiamo su un puro sangue del cinema da vedere in casa, ma del cinema tout court, che stavolta però tiriamo in ballo qualche istante prima, perché fra i film che escono questa settimana in sala c'è il ritorno di François Ozon con un film che si intitola Franz. Miei cari genitori, vorrei tanto fuggire per tornare da voi, lontano da questo caos. Questa mattina ci siamo imbattuti in un soldato morto. È come se ci avesse aperto gli occhi. Abbiamo visto un mare di cadaveri. Francesi, tedeschi. Non c'erano più divise. A scuola i bambini francesi imparano il tedesco e i tedeschi imparano il francese. Poi, quando cresciamo, dobbiamo ucciderci l'un l'altro. E allora, questa è una clip, avete sentito, il clima non è esattamente dei più allegri, non è una commedia, insomma, questo film di François Ozon che si sposta indietro nel tempo, ancora una volta, nella Germania del 1919, e appunto racconta un paese dilaniato in tutto e per tutto, con una guerra che ancora incombe sulle anime della gente. Perché ne parliamo con Giulio San Giorgio? Perché intanto ha qualcosa da dirci su François Ozon, ma anche perché ha qualcosa di pubblicato recentemente su François Ozon. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori e grazie per il puro sangue. Sì, allora, sì, colgo l'occasione appunto dell'uscita di France, che è l'ultimo film di Ozon, presentato tra l'altro a Venezia con grande successo, e che tra l'altro in Francia sta avendo un fortissimo successo di pubblico, tanto che hanno fatto delle statistiche strane, che non so come hanno fatto a creare, ma le locandine dicono che il 94% del pubblico gradisce il film, quindi è una buona percentuale, direi. Il film è veramente un film, come si è sentito dal trailer, ambientato nella Germania del 1919, c'è questo soldato francese che piange sulla lapide di un soldato tedesco, e la promessa sposa, i genitori del defunto e tutto il paesello si chiedono chi sia questo soldato, che fanno diventare un capo espiatorio, un figlio da accogliere, un possibile amore. Ozon parte da una pièce di Maurice Rostand, adattata già da un mostro sacro del cinema, che è Ernst Lubitsch, nel 1932. E fa un film che parte creando tensione sull'enigma di questo ospite, chi è questo ospite, poi passa all'apologo antimilitarista, che è un apologo contro tutti i discrimini, perché i figli della guerra sono tutti uguali, infatti qui c'è tutto un gioco di nomi tra France, il francese, François, e poi finisce per concentrarsi, come spesso accade nel suo cinema, sull'elaborazione del lutto della protagonista, della vedova prematura. Il film è girato in un bianco e nero bellissimo, che però non è un semplice giochetto mimetico, un po' postmoderno con i film di quel periodo, ma invece è proprio una questione puramente emotiva. Infatti quando il film, è un film luttuoso, come si è sentito anche dai toni precedenti, quando il film trova un sollievo, uno sprizzo di felicità, che può essere una felicità vera o fasulla, diventa colori. Con Inland, che è una rivista gratuita e monografica che è edita da Bietti e che si può scaricare sul sito della casa editrice, poi www.bietti.it, e che invece si può trovare in forma cartacea per chi volesse venire alle presentazioni dei libri della nostra collana, abbiamo dedicato un numero monografico a Ozon, è la prima monografia dedicata a Ozon, che spesso è considerato un autore semplicemente formalista, uno che fa esercizi di stile, ma che secondo me invece è un grande autore, la cui ricerca estetica non è mai gratuita, ma è sempre adeguata al sistema di maschere, di mascheramenti, di identità in costante evoluzione, in costante metamorfosi, che poi sono veramente il fulcro del suo cinema, anche Franz lo dimostra. E allora Giulio, grazie per averci raccontato Franz, grazie anche per questa monografia su Ozon della rivista Inland, rimani con noi perché fra poco dovremo richiamarti in causa per parlare delle segnalazioni dalla TV della settimana. Adesso noi diamo invece la linea alla viabilità, torniamo fra poco qui alla Rosa Purpurea per parlare del grande musical, questa volta tocca a West Side Story. La Rosa Purpurea. Per il 1961, quando Jerome Robbins e Robert Wise traevano dal mitico musical West Side Story un film che è diventato leggenda, musical che era stato fatto mostrato la prima volta solo 4 anni prima a New York il 26 settembre con le musiche di Leonard Bernstein e i testi di Stephen Sondheim, due mostri sacri della musica e dei libretti del musical. E allora West Side Story da lì è diventato ovviamente, a parte il più riprodotto dei musical di tutti i tempi, nel senso che ha avuto anche come la settimana enigmistica tanti tentativi di imitazione, ma soprattutto uno dei più rappresentati. E adesso a Milano arriva una nuova versione, un nuovo allestimento con la regia di Federico Bellone al Teatro Manzoni di Milano, e Federico Bellone è con noi per raccontarci un po' questo ritorno di West Side Story a Milano dopo 20 anni. Ciao Federico. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Allora, come si fa a mettere le mani su un materiale così famoso, così bello, così perfetto? Cosa fa un regista? Ma in realtà, guarda, è un piacere ed è anche una facilitazione, perché quando si ha uno spettacolo così ben scritto, sia musicalmente che come dialoghi, in realtà è il testo, il libretto e le musiche che ci aiutano a fare un bello spettacolo. A volte è più difficile invece con titoli, come dire, con un materiale un pochino più superficiale, per il regista è più complesso ovviamente portare in scena uno spettacolo valido. Allora, raccontaci un po' come hai allestito questo cast di queste due faide, no? Di queste due fazioni che si contendono, una donna, l'amore, il territorio. Certo, beh, in Italia siamo un po' fortunati perché abbiamo comunque delle parvenze abbastanza variegate, no? Ci sono sia comunque delle derivazioni nordiche, quindi qualche biondo ancora l'abbiamo, e poi invece grazie alla nostra natura anche meridionale troviamo tanti visi, tante facce appunto appartenenti che richiamano, ricordano i portoricani, quindi quello non è stato un problema. E devo dire che siamo fortunati perché facendo lo spettacolo a inizio stagione abbiamo avuto la possibilità veramente di scegliere tra il meglio del meglio del teatro musicale italiano, perché tutti sono ancora liberi, gli impegni lavorativi iniziano più avanti, diciamo quelli di lunga tenitura, e quindi abbiamo proprio attinto da quello che è il top del teatro musicale italiano. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. L'altra grande canzone, una delle altre grandi canzoni del musical West Side Story è Maria. Federico, parlaci un po' della tua Maria. Allora, la nostra Maria, l'interprete, chiaramente è una ragazza molto giovane, molto dolce, che ricorda molto anche Natalie Wood. E attualmente in Italia finalmente è proprio possibile trovare interpreti anche giovanissimi ma molto preparati, perché questo fenomeno del musical negli ultimi 20-30 anni, soprattutto anche grazie a Saverio Marconi e alla Compagnia dell'Arancia, che hanno appunto prodotto tantissimi spettacoli negli anni 90 e anche adesso chiaramente, hanno attirato tanti giovani allo studio di queste discipline, e siamo riusciti quindi a trovare una ragazza piena di purezza e di talento anche. Per quanto riguarda la canzone invece Maria, cantata da Luca Giacomelli, che fa Tony, che forse molti ricorderanno nel ruolo di Mercuzio nel musical Romeo e Giulietta, di appunto che ha girato ultimamente appunto in tutta Italia, ha una voce quasi lirica, meravigliosa, ed è appunto messo in scena con un insieme di 5 scale antincendio che si muovono sul palcoscenico come su delle nuvole e fanno l'effetto di appunto un Tony che passeggia per la città in cerca della sua amata. Ti faccio un'ultima domanda, Federico, quanto hai strizzato l'occhio al film di Robert Wise? Dove hai pescato una suggestione, qualcosa? Ma in realtà devo dire che il materiale che si trova di West Side Story in generale, sia il film che tutto il resto, appartiene molto alla visione di Gerald Robbins, che è appunto l'ideatore anche proprio dello spettacolo, del concetto, che ha deciso di prendere questa storia di Shakespeare e riportarla in scena però negli anni 50 di New York. Quindi devo dirti che tutto quello che si trova è molto riferito alla sua idea, che credo sia vincente. Infatti, come forse saprai, le coreografie della nostra versione sono comunque quelle di Gerald Robbins, perché è talmente forte il messaggio e l'idea iniziale di Robbins che credo che quella ispiri veramente qualsiasi versione venga fatta dello spettacolo in tutto il mondo. E allora ricordiamo l'appuntamento: Teatro Manzoni di Milano dal 27 settembre al 9 ottobre, 15 repliche per West Side Story, diretto da Federico Bellone. Grazie Federico. Grazie a voi. E allora, il grande musical torna dal vivo, noi ci siamo sempre a raccontarvi queste attinenze, diciamo, del cinema che travalica i confini e finisce nelle altre discipline, nelle altre arti. Adesso siamo arrivati alla parte finale, dobbiamo però svelare il game della scorsa settimana. We started this company from nothing. Right, and now we're selling it. I'm talking about our dreams, man, you don't understand. Okay, here's what I do understand, Richie. You're high. Yeah, what, so what? E allora si trattava di Vinyl, era la serie con la quale avevamo giocato la settimana scorsa, una serie piena di cinema, di gente di cinema, di un'impostazione cinematografica, a partire da Martin Scorsese, che era stato il regista della prima puntata e produttore del film insieme a Mick Jagger. Queste erano le due domande da indovinare. Hanno vinto il cofanetto con la prima stagione di Vinyl Alberto Dorsi di Cernusco sul Naviglio e Andrea Santamaria di Genova. Facciamoci raccontare questa edizione dal ritrovato Giulio San Giorgio. Rieccoci, sì, doveva essere una bomba, in parte lo è stata, e però non sarà rinnovata la serie per una seconda stagione. Come dicevi, gli ingredienti sono veramente esplosivi: Martin Scorsese alla regia, Mick Jagger come produttore e Terence Winter, lo scrittore di Soprano, Boardwalk Empire, The Wolf of Wall Street, alla sceneggiatura. Siamo a New York nel 1973, il punk sta per esplodere, la disco music sta per esplodere, il rap inizia a spargere i primi semi e il rock and roll non si sente tanto bene. Richie Finestre, fondatore e presidente dell'American Century Records, il protagonista della serie, è un'etichetta rock che ha visto decisamente i giorni migliori. Nel Blu-ray, il cofanetto, diversi extra come il making of, il commento di Bobby Cannavale, il protagonista, Olivia Wilde e Terence Winter. E allora questo era il nostro game della scorsa settimana, Vinyl. Tra l'altro molti nostri ascoltatori che non hanno vinto, ma anche qui hanno partecipato davvero in tanti, riceveranno premi di consolazione bellissimi dalla colonna sonora della serie alla maglietta ufficiale di Vinyl. Insomma, aspettatevi il postino, qualcosa potrebbe arrivare. Giulio, invece, un paio di segnalazioni dalla programmazione TV della prossima settimana. A partire, abbiamo parlato di grandi musical, ho voluto mettere un film di Vincent Minnelli, che in questo caso magari non c'entra, ma insomma col musical ha molto a che fare. Martedì 27, TV 2000 alle 22:20, La donna del destino. Un giornalista sportivo e una disegnatrice di moda si sposano, scoprendo di avere però decisamente poco in comune. Minnelli qui è davvero in grande forma per una commedia che mescola abilmente elementi di commedia sofisticata con quelli di una tradizione comica, equivoci, gag, ritmo sfrenato. Il mix riesce perfettamente e gli interpreti Lauren Bacall, Gregory Peck e una strepitosa Dolores Gray sono veramente in stato di grazia. E allora, appuntamento con La donna del destino di Vincent Minnelli alle 22:20 del 27 di settembre su TV 2000. Invece, il giorno dopo, mercoledì 28, abbiamo parlato stavolta invece di Anton Fuca come regista dei Magnifici 7 in sala in questi giorni. C'è un altro film di Anton Fuca che è Brooklyn Finest su Rai 2 alle 23:30. Sì, è la storia di tre poliziotti, ciascuno in lotta con i propri demoni, che lavorano nel distretto 65. Non sono destinati a incontrarsi finché una notte un blitz antidroga li conduce nello stesso luogo fatale a nord di Brooklyn, dove si scatena l'inferno. Fuga, appunto, che è regista dei Magnifici 7, ha l'ambizione di usare il poliziesco per intessere una tragedia greca contemporanea, metropolitana, con grande enfasi retorica e nessuna consolazione, ma basandosi soprattutto su un ottimo cast da Ethan Hawke, Richard Gere, da Don Cheadle a Wesley Snipes. E allora, questo è il secondo film segnalato della prossima settimana. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci resta che il tempo di ricordare che il gioco, il film con cui abbiamo giocato questa settimana era Il caso Spotlight, i vincitori fra 7 giorni. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.